Allora, siamo in collegamento con Lambretta, pronto? Pronto, ciao. Ciao. Allora, intanto raccontiamo cos'è l'esperienza Lambretta. Allora, il Lambretta è un centro sociale che è stato occupato nell'aprile del 2012, sono 4 villette di proprietà dell'ALER, che è l'ente Camilano dovrebbe regionale sostanzialmente, che gestisce principalmente le case popolari e l'assegnazione di case, ma che appunto a Milano ha moltissime proprietà che poi lascia vuote al degrado. Noi quando siamo entrati nell'aprile del 2012 sostanzialmente abbiamo trovato una situazione totalmente di degrado, appunto appena un posto pieno di siringhe, lasciato completamente allo spaccio di eroina. In questi insomma 2 anni l'abbiamo riqualificato facendo moltissimi progetti come la palestra popolare, la radio, uno studio di registrazione, il bar, l'aula computer per tutto il quartiere con il wifi aperto, insomma tantissime cose, uno studentato per gli studenti universitari e moltissimi altri progetti. Quello che è successo è che già nell'ottobre del 2012 questo posto è stato sgomberato e non è stato sostanzialmente fatto più nulla, nel senso che è stato lasciato vuoto un'altra volta. Allora noi l'abbiamo ripreso, sì, totale, e l'abbiamo ripreso subito, nel senso che appunto col fatto che non l'avevano lasciato vuoto e al degrado un'altra volta abbiamo rioccupato per garantire un futuro anche a queste villette, dato che poi avevamo anche un buonissimo rapporto con gli abitanti del quartiere che appunto erano molto contenti del lavoro che stavamo facendo. Questa mattina alle 7 sono arrivati gli uomini in borghese con gli uomini della Celere, sono arrivati con un atteggiamento molto imbruttito, nel senso che hanno da subito rotto vetri, queste sono villette dell'inizio del Novecento, per cui hanno anche un valore storico, se ne sono fregati completamente, sono arrivati, noi siamo riusciti a salire nel sottotetto chiudendo la botola e loro hanno subito, l'hanno praticamente subito rotta con noi sopra, cioè, dicendo che usavano il flessibile, ma poi l'hanno praticamente rotta a martellate. Insomma, ce ne sono stati attimi abbastanza di tensione, adesso la situazione è più tranquilla, stiamo riuscendo a portare via delle cose. Chiaramente le nostre richieste sono intanto di sapere il futuro di queste villette, di non avere ovviamente denunce per i ragazzi che sono sul tetto e di riuscire a portare via la roba e di garantire anche magari un futuro alle famiglie che avevano occupato con noi le villette qua a fianco, che anche loro sono state sgomberate con bambini e tutto, lasciate in mezzo a una strada, come spesso succede soprattutto in questo anno a Milano, come è successo insomma. Quindi la situazione adesso è più tranquilla, adesso ci sarà una mobilitazione per le 8 qui davanti in piazza Ferravilla 11, che appunto è un ritrovo aperto a tutti, a chiunque voglia portarci solidarietà e venirci appunto ad aiutare. Senti, in questo momento dicevi le famiglie coinvolte, quante persone all'incirca? Sono più o meno 4 nuclei familiari con moltissimi bambini. Tutto questo è avvenuto senza preavviso stamane o avevate avuto avvisaglie? Allora, noi sapevamo già da 2 o 3 mesi che lo sgombero di questo spazio sarebbe avvenuto, sì. Non sapevamo ovviamente il giorno né il momento in cui sarebbero arrivati, per cui insomma quando siamo stati totalmente colti di sorpresa sul momento, sì. Infatti siamo appunto riusciti a salire sul tetto, ma appunto molto quasi per un pelo insomma. Senti, per come sono arrivati. In questi 2 anni c'è stato un tentativo di rapporto con le istituzioni? Ma guarda, in realtà sì e no, nel senso che noi ci siamo sempre dichiarati aperti per scoprire quale sarebbe stato il futuro di queste villette già al primo sgombero e poi a Milano c'è stato anche il comune di Milano che quest'anno ha provato a aprire, cioè l'anno scorso ha provato a aprire i bandi, ma per noi non erano assolutamente una soluzione al problema abitativo, al problema degli spazi sociali, e poi ha provato quest'anno a aprire un tavolo di lavoro sugli spazi lasciati vuoti, ma anche in questo caso la garanzia che noi chiedevamo su questa cosa era: allora però se volete parlare fermate gli sgomberi non sono stati fermati, perché un mese fa è stato sgomberato uno spazio comunale ZAM, per cui sì, noi sostanzialmente siamo andati a sentire che cos'era, ma ci siamo resi conto che da parte del comune non c'è assolutamente una capacità di dialogo, e noi con queste condizioni non siamo assolutamente disposti a dialogare, nel senso, perché siamo realtà che come ben sapete i centri sociali esistono da tantissimo, hanno una storia, non è che si può avere condizioni che non sono assolutamente praticabili. Senti, i rapporti quindi, con niente, per adesso non ci sono nessun rapporto. I rapporti con il quartiere e la zona circostante? La zona circostante per nostra fortuna è sempre stata molto solidale, perché come vi ripeto, nel senso, qui quando siamo arrivati era veramente centro dello spaccio di eroina, abbiamo riqualificato tutto e siamo riusciti a portare queste villette al quartiere, cioè a renderle, a fare un lavoro soprattutto nella prima occupazione molto intenso con gli abitanti, per cui sicuramente abbiamo sempre avuto solidarietà dagli abitanti del quartiere, perché le abbiamo riqualificate queste villette, erano veramente lasciate al degrado e sono veramente bellissime anche come struttura. Sì. Come per quello che possono offrire, insomma, è un complesso di 12 villette, noi ne abbiamo occupate solo 4, ma un complesso di 12 lasciato totalmente al degrado. Senti, le altre strutture cittadine hanno dato qualche cenno di risposta a quanto avvenuto stamattina? Sì, certo, sono già tutti qua davanti a portare solidarietà, assolutamente c'è stata una gran solidarietà, ma non solo dalle strutture cittadine, anche dalle strutture nazionali, infatti siamo molto molto felici di questo. Allora, prima di ricordare l'appuntamento di oggi, avete anche dei riferimenti internet per chi volesse esprimere solidarietà o saperne di più sulla vostra storia? Assolutamente, allora prima di tutto consultare il sito milanoinmovimento.com, che è il sito dove noi appunto stiamo scrivendo anche tutto quello che sta succedendo in diretta con video e foto, quindi chiunque abbia bisogno di andare a vedere lì, e per chi ha Facebook anche Collettivo Lambretta o anche sempre la pagina di NIM, di Milano in Movimento, potete trovare tutto, soprattutto su Collettivo Lambretta comunque e sul sito di milanoinmovimento.com. Bene, allora a questo punto ricordiamo l'appuntamento di quest'oggi. Sì, di quest'oggi alle 20, qui il presidio è permanente, quindi chi vuole anche venire prima sicuramente ve l'accetto, comunque il puntello per la mobilitazione alle 8 in piazza Ferravilla 11. Benissimo, allora un abbraccio solidale da Roma e a risentirci nel corso della giornata. Continuiamo a resistere, va bene, grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao.